Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, concludiamo questo ponte ferragostano con una puntata che dedico ai libri che hanno a che fare con i viaggi e con le mete. Tra queste ultime, una delle più gettonate, soprattutto presso il pubblico dei più giovani, rimane Berlino. Berlino è sempre stata una città di straordinaria vivacità, in certi momenti decisamente anticonformista, come ci racconta Mario Fortunato nel libro Le voci di Berlino, pubblicato da Bompiani, 190 pagine, 17 euro. Questo è, come lo definisce l'autore, un vero e proprio romanzo della città, una ricostruzione veramente insolita, condotta attraverso le esperienze di alcuni personaggi, alcuni molto celebri, altri meno, che hanno espresso proprio quel clima febbrile ed eccitato della città. Si parte dal 29, quando a Berlino si trovano un grande scrittore, Christopher Isherwood, e un grande poeta, tutti e due inglesi, Weston Auden, che sono amici ed amanti. E poi troviamo, per esempio, i figli di Thomas Mann, Klaus ed Erika, e il loro rapporto così complesso e anche fonte di molti pettegolezzi, l'autore dell'incendio del Reichstag, uno sprovveduto ragazzone olandese, Rinus van der Lubbe, fino ad arrivare alle storie del 2011 con una storia triangolare che riassume un po' il destino di una città che accoglie, mischia e intreccia. Ma su questa storia sentiamo l'autore. Buonasera Mario Fortunato. Buonasera. Mario Fortunato, nell'epilogo del suo libro lei accenna all'attrattività che Berlino esercita su tanti giovani e cita una frase con la quale inizio questa ultima parte del suo libro: Berlino è una città condannata per sempre a diventare e mai a essere, e in questo appunto sta il suo fascino. Ecco, come spiega questa frase che cita di Scheffler su Berlino? Beh, appunto, come dice lei, è una citazione, quindi non vorrei impossessarmene del tutto. A ogni modo, quello che intendevo dire è che almeno l'esperienza del XX secolo, cioè del secolo scorso, ha dimostrato che appunto è una città che, come dire, che è mutata continuamente, no? Perché all'inizio del Novecento era, negli anni venti, una città molto vivace, piena di vita, soprattutto culturale, benché in difficili condizioni economiche. Siamo negli anni di Weimar, diciamo così. Poi sappiamo quello che c'è stato, cioè il nazismo, la seconda guerra mondiale, la città è stata completamente distrutta, quasi del tutto rasa al suolo, insomma, qualche cosa di veramente catastrofico, è inimmaginabile pensare lo stesso in Italia, no? Roma in fondo è rimasta tutta lì, è rimasta tutta in piedi, il Colosseo è lì da 2000 anni, eccetera. E Berlino fu praticamente un campo di macerie. Dopo la seconda guerra, cosa è successo? È stata divisa in due pezzi, c'è stato il muro fino all'89, nell'89 il muro è caduto. Il muro divideva non solo due pezzi della città, ma due concezioni del mondo, diciamo così, no? Perché il settore ovest era il settore, come dire, del capitalismo nel suo trionfo, il settore dell'est doveva essere l'esempio del socialismo reale, insomma. Il muro è caduto nell'89, la città è ridiventata un corpo unico, prima di ridiventarla però ha dovuto compiere molti passi, è ridiventata capitale della Germania, perché nel frattempo la capitale della Germania Ovest era Bonn, è diventata de facto capitale dell'Europa unita, se non altro perché è la capitale del paese, diciamo così, più ricco e economicamente e politicamente forse il più rilevante. Insomma, è una città che ha cambiato pelle continuamente, e in questo senso è una città in progress, diciamo così, e forse questo è uno dei motivi per cui attrae moltissimo la gioventù europea. È straordinario vedere il tasso, proprio la percentuale di giovani che vive a Berlino, e che non sono solo giovani tedeschi, ma sono giovani italiani, spagnoli, francesi, persino inglesi, che non hanno mai amato particolarmente i tedeschi tradizionalmente. L'altro motivo, più semplice, più diretto e più pratico, è che è una città che costa poco e quindi, come sempre, i giovani e gli artisti vanno dove la vita è più semplice, più a buon mercato e forse anche più divertente. Una caratteristica che lei coglie di Berlino è il fatto che, a differenza di Londra, lei specifica, Berlino non si narra e non è una metropoli con una sola voce. Che cosa comporta questa pluralità di voci di Berlino? È una pluralità di voci, per fortuna, perché quando se ne è sentita una sola era quella del nazismo, era quella del comunismo, e direi che in entrambi i casi è meglio che queste voci tacciano, diciamo così, se possibile, per sempre. Quello che volevo dire, Londra è una città in cui io ho vissuto per molti anni e che continuo a frequentare e che in un certo senso considero la mia seconda casa. Londra è una città che ha un'idea di sé, questa idea è un'idea complessiva di sé, che sia Dickens a raccontarla, e quindi la Londra dei poveri, diciamo così, ossia Evelyn Waugh a raccontarla, e in questo caso è la Londra dei ricchi, dei quartieri alti, quella sua voce è riconoscibile sempre, è la capitale di un impero, dell'unico impero moderno che l'umanità ha conosciuto, cioè l'impero britannico, che discende, secondo me, in linea retta da quello romano. Berlino non è così, non è mai stata, ripeto, capitale unica, non è riconoscibile una voce a Berlino. La storia di Berlino è fatta in larga misura da non berlinesi e addirittura da non tedeschi, come io cerco un po' di ricostruire in questo libro. Non a caso i primi due personaggi a comparire sono due scrittori inglesi, cioè Winston Oden, che secondo me è stato il più grande poeta del Novecento, e Christopher Isherwood. E gli altri personaggi che compaiono sono molto spesso non tedeschi e non solo non berlinesi. In questo senso lo dico, nel senso che è una città che non ha mai avuto il tempo, e ripeto, per fortuna, di essere la capitale di un impero. E ripeto, per fortuna, perché quando ci ha provato gli esiti sono stati catastrofici per tutta l'Europa, insomma, non solo per i tedeschi. Certo. Parlando di Isherwood e Oden, lei scrive, sottolinea come Berlino per questi due artisti fu l'occasione per assumere, attraverso il riconoscimento della propria omosessualità, la propria identità, e anche la base del loro forte impegno politico. E conclude questo brano dicendo che non potremmo capire l'eclisse della ragione che portò a Hitler senza i due romanzi berlinesi di Isherwood. Ecco, che cosa rappresentò per questi due autori la città? Beh, appunto, come lei accennava, è stato innanzitutto, bisogna pensare che erano due ragazzi, due giovani, quando sono sbarcati a Berlino nel 28-29, erano ragazzi di 24-25 anni, che venivano da una Londra immediatamente post-vittoriana, quindi una Londra molto chiusa e severa sotto il profilo dei costumi sociali e sessuali. Berlino era invece una città molto vivace, molto effervescente, dove c'era un'estrema libertà morale, sessuale e sociale, dove per esempio il sesso veniva vissuto con estrema allegria, diciamo così, e apertura. Quindi per loro ha rappresentato innanzitutto, come dicono i francesi, un bouleversement, no? come un calzino rovesciato, insomma, un guanto rovesciato, non lo so, insomma. Comunque un cambiamento notevole, nel senso che per la prima volta hanno sperimentato la libertà di essere se stessi, poi in definitiva. In Isherwood i due romanzi berlinesi, cioè Addio a Berlino e Mr. Norris se ne va, raccontano Berlino con l'occhio dello straniero, quindi con quell'occhio che è un po' vicino, affettuoso, ma anche un po' distaccato, come sempre uno straniero rispetto alla realtà di un paese che non è il suo e di una lingua che non è la sua. Lì Berlino viene raccontata nella sua freschezza e anche nel suo, come dire, nel suo orrore, diciamo così, quello che di lì a poco sarebbe diventato orrore, insomma, cioè il nazismo. E Isherwood, senza saperlo, ha fornito agli storici due straordinari documenti, adesso a parte il valore letterario, voglio dire, la loro bellezza, il fatto, io invito chi ci sta ascoltando, se non l'ha fatto già, a leggere questi due romanzi. Ma, ripeto, ha fornito agli storici futuri due documenti di straordinaria vivezza e sincerità, anche verità, di quella che era la città proprio alle soglie, diciamo, del nazismo, un momento prima, come una fotografia, sai, come adesso noi abbiamo tutti questi, c'è una catastrofe, allora qualcuno che era dentro la catastrofe ha girato un filmino così amatoriale, eccetera, e registra una situazione che altrimenti non avremmo mai visto. Ecco, Isherwood ha fatto lo stesso, naturalmente con le armi della letteratura, e quindi molto meglio. A proposito dell'eclisse della ragione, nel capitolo che dedica a Rinus van der Lubbe, lei sottolinea la sorpresa di questo ragazzone, un po' ingenuo, poveretto, che vedeva affermarsi il nazismo senza nessuna reazione. Infatti lei scrive: non accadeva nulla, non accadeva niente. Come mai questo sentimento di acquiescenza in una città che era intellettualmente così vivace? Beh, però guardi, se lei ci pensa, col famoso senno di poi, che a noi umani è molto caro, diciamo così, anche perché c'è utile in qualche modo, nei grandi movimenti della storia accade sempre questo, cioè le persone è come se rimanessero ipnotizzate, imbambolate, e non sapendo bene che pesci pigliare, continuano a fare la loro vita di tutti i giorni. Lei pensi solo a una cosa: la comunità ebraica di Berlino, che era una comunità molto grande, storicamente molto importante e strutturata, dove si parlava lo Yiddish, no? L'Yiddish era appunto il dialetto che gli ebrei berlinesi parlavano, insomma, che poi in seguito noi sappiamo essere una lingua importante per tanti scrittori venuti dopo, e anche prima naturalmente. Ecco, la comunità ebraica di Berlino non ha fatto nulla, cioè noi oggi potremmo pensare: ma perché non se ne sono andati? Perché non hanno, oltretutto è un popolo nomade per eccellenza, metti su e te ne vai, insomma, è evidente che quello che sta per accadere sarà una catastrofe, soprattutto per te. Non lo hanno fatto, all'80% non lo hanno fatto, perché è difficile riconoscere la realtà quando la realtà è terrorizzante, quando è molto dolorosa. Di solito gli esseri umani cosa fanno? Fanno una cosa più semplice: volgono gli occhi altrove. In questo caso, nel caso degli ebrei berlinesi, probabilmente guardavano in terra, insomma, cercavano di rendersi un po' invisibili. Grazie a Mario Fortunato, autore delle Voci di Berlino. Buona serata. Grazie a voi, buonasera. E uno dei due libri di Christopher Isherwood, citato da Fortunato, è stato tradotto da poco in Italia, si intitola Addio Berlino, appunto pubblicato da Adelphi, 252 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Laura Nullian. Troviamo qui sei scritti con un diario berlinese fra il 1930 e il 1933 che ci restituiscono la vivacità di Berlino, ma anche il clima, che fu anche un clima di rassegnazione, nel quale ebbe luogo l'ascesa al potere di Hitler. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parlavamo di mete, dopo Berlino andiamo in un'altra grande città che fu una capitale globale ai suoi tempi, e cioè Atene, descritta in maniera insolita in un libro di John Gale, che è un giornalista britannico che vive proprio nella capitale greca. Il libro si intitola Atene, il ritratto di una città, è pubblicato da Odoia, 266 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Massimiliano Marconi. Questo libro che vi presento non è una guida turistica, ma un'introduzione a questa città sempre affascinante che, dice l'autore, è anche un grande enigma, è una città complessa. E quindi proprio dall'ultima Atene che Gil vuole parlarci, di un'Atene che cerca costantemente di affrontare l'equivoco, l'enigma che la caratterizza, cioè il fatto di essere il frutto dell'invenzione degli ultimi 180 anni di storia, come scrive l'autore. Nella stessa serie di Odoia vi segnalo, se avete voglia o state facendo viaggi più avventurosi, il libro di Eamon Giron, che è anch'egli uno studioso inglese arabista di specializzazione, che si intitola Sahara, paesaggio dell'immaginario, 310 pagine, 18 euro, tradotto da Carmen Mangiola. E qui troviamo arti, miti anche cinematografici del Sahara, una meta che non ha mai perso il suo fascino e che di questo suo fascino offre sterminate chiavi di lettura. Un'altra serie, questa tascabile di libri da viaggio, è pubblicata da EDT nella collana La Carta, che affronta l'esame di grandi città attraverso il cibo. Il primo titolo è di Marco Malvaldi, che è un chimico e scrittore, che si intitola La famiglia Tortiglia, 112 pagine, 7,90 euro, dedicato a Barcellona, e poi di Davide Enia, Uomini e pecore, 92 pagine, l'autore è un drammaturgo che invece affronta il tema romano nel periodo della liberazione del 44. È un libro scritto sotto forma di memoriale. Infine, nella stessa collana, di Paolo Cognetti, scrittore appassionato di New York, troviamo Tutte le preghiere guardano verso ovest, 106 pagine, che è un percorso cultural-culinario anche con riferimenti pratici attraverso la Grande Mela. E su New York segnalo Chelsea Hotel, viaggio nel palazzo dei sogni, pubblicato anche questo da EDT, 512 pagine, 23 euro. L'autrice è Shirley Tippins, giornalista e scrittrice newyorkese, che qui ci dà un denso ritratto della città attraverso la storia di un edificio emblematico, appunto il Chelsea Hotel, che dal 1884 ha dato ospitalità a una serie di artisti tra i più famosi del Novecento, da Mary McCarthy a Sam Shepard, a Joseph O'Neill, a Jackson Pollock, a Julian Schnabel, a Francesco Clemente e a Bob Dylan, che qui curò, progettò il disco Blonde on Blonde, dal quale sono tratte le note che ci stanno accompagnando. Al Chelsea Hotel non si va per la comodità o per i servizi, ma per il fascino che ha ispirato e che dal quale sono nati molti film e serie televisive. Oggi l'albergo è chiuso, ma ospita ancora un gruppo di creativi. Ma sentiamo dal libro che cosa provavano questi artisti, magari europei, che sceglievano proprio quell'albergo per trascorrere un periodo a New York. I residenti apprezzavano davvero tanto un proprietario che sopportava ogni cosa, eccetto naturalmente un deficit, come scrisse Arthur Miller. Fu una bella cosa assistere alla rimozione del divieto di accesso a ospiti afroamericani, per cui l'incisore Robert Blackburn fu uno dei primi residenti di colore dell'albergo. L'armonica unione tra la sensibilità europea di Bard e la persistente atmosfera da romantico socialismo francese attirava un numero sempre maggiore di artisti dal continente, tra cui il muralista ceco Leo Katz e il fotografo Henri Cartier-Bresson, insieme alla sua protetta Inge Morath, a cui il Chelsea era stato consigliato dall'amica Mary McCarthy quando si erano conosciute a Parigi. I nuovi arrivati trovavano conforto nella raffinatezza politica e culturale dei residenti, dopo il terzo grado che spesso subivano dagli ispettori dell'immigrazione. Si sentivano quasi subito a casa, si rilassavano nel fascino del Chelsea, in quell'atmosfera unica di decadenza inarrestabile, e si mescolavano al flusso degli attivi e giovani artisti, attori, musicisti e scrittori americani, molti dei quali appartenenti ora alla classe operaia ma istruiti grazie alle sovvenzioni pubbliche, che studiavano con Stella Adler o alla New School con W.H. Auden e Hannah Arendt. In altre parti della città, i loro coetanei facevano lauti pranzi grazie alla generosità dell'industria postbellica, ammazzando il tempo negli uffici di Midtown in cambio di ottimi stipendi e ampi benefit. Però al Chelsea si poteva essere poveri e pensare che valeva la pena vivere. E sull'Italia invece vi segnalo una guida abbastanza inconsueta, che è quella di Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, Dove comincia l'Abruzzo, è pubblicato da Exorma, 284 pagine, 14,90 euro, due terranauti in autobus tra Saperi e Gusto. La collana I viaggi senza auto di questo editore ci dà questo titolo, in cui appunto due terranauti vanno in autobus tra sapori e gusti nascosti, raccontando un viaggio di 7 giorni tra antichi borghi, tradizioni culinarie, storie varie, riferimenti letterari che ci offrono un quadro molto vivo di un'Italia considerata minore soltanto perché meno battuta dal turismo di massa. Ma abbiamo detto, siamo in un periodo di viaggi, allora come si viaggia e perché si viaggia così tanto? Ce lo ha insegnato a viaggiare soprattutto un inglese, Thomas Cook, che è il fondatore dei viaggi moderni. fondatore anche della prima grande agenzia di viaggi, che troviamo protagonista del libro di Masolino D'Amico, Il viaggiatore inglese, pubblicato da Schirà, 90 pagine, 13 euro. Il libro dunque ricostruisce la carriera del grande Cook, rivissuta in un racconto che è la premessa alla sceneggiatura di un film che il narratore del libro vorrebbe ricavare dalla vita dello stesso Cook, una vita singolare. Cook era nato da una famiglia molto modesta ed era un ardente attivista della campagna per la temperanza alcolica e cominciò appunto a organizzare viaggi per distrarre, per così dire, dalla bottiglia i suoi connazionali. Il primo viaggio che organizzò ebbe luogo il 5 giugno del 1841, raccolse 500 persone che con 5 scellini fecero un viaggio di 22 miglia partendo da Leicester. L'esperienza ebbe fortuna, pur tra alti e bassi, e iniziò così la carriera di Cook, resa anche possibile dall'avvio di un diabolico mezzo di trasporto, il treno, che gli aprì insperate occasioni di escursioni che non sempre appunto ebbero un esito finanziario felice. E nel libro troviamo ricostruito quell'ambiente, quegli anni, sullo sfondo di questa breve ma appassionante biografia che tra l'altro mette in luce le immediate preoccupazioni che il business che Cook aveva lanciato, cioè quello dei viaggi di massa, suscitò, ossia il timore presso le classi benestanti del diffondersi di quello che poi avremmo chiamato turismo di massa. Sentiamo per esempio una delle critiche più acuminate che furono rivolte a Cook e allo sforzo di portare in viaggio anche delle classi che non si erano mai spostate da casa. Quello che è divertente è l'atteggiamento non tanto degli indigeni, ma piuttosto degli inglesi bene nei confronti di questi cockney che invadevano in massa luoghi privilegiati. Una volta le montagne erano inaccessibili e avvicinarvisi era una vera avventura. Adesso erano a disposizione di tutti grazie alla facilitazione delle strade di accesso, dei mezzi di trasporto, dei luoghi di accoglienza e via dicendo. Più a sud, queste frotte di curiosi occupavano i musei, le cattedrali e le piazze delle città monumentali. Ovviamente era un processo inevitabile, ma nei primi tempi si cercò di ostacolarlo, anche con proteste un po' comiche. A questo proposito si citano sempre gli articoli di Charles Lever, che era uno scrittore brillante, possiamo dire un umorista, irlandese di origine. Quest'uomo intraprendente e privo di scrupoli stipula un contratto per trasportare i turisti, sfamarli, alloggiarli e intrattenerli. Così, eccoli dovunque sono riunioni, spettacoli teatrali, sculture, legno intagliato, affreschi, bucati e roulette. In una parola, costoro vanno sistemati nella maniera più completa, senza null'altro chieder loro se non il pagamento di tot sterline. E tutti i dettagli della strada o della locanda, del teatro, della galleria o del museo, saranno accuratamente affrontati da questo personaggio provvidenziale, il cui nome certo dovrebbe essere Barnum. Costui inonda l'Europa di tutto quanto è basso, volgare e ridicolo. Commentando l'aspirazione di tanta gentuccia a recarsi all'estero in queste spedizioni, un periodico snob come la Pall Mall Gazette spiegò che, servendosi delle facilitazioni offerte da Mr. Cook, quei viaggiatori improvvisati si atteggiavano a gentiluomini come degli squattrinati che, per pavoneggiarsi, facciano imitare degli abiti eleganti da un sartino da 4 soldi. Combattivo come sempre, Thomas rispose agli attacchi di Lever pubblicando un opuscolo in cui confutava i suoi argomenti e attaccava lui personalmente. Costui vorrebbe riservare statue e montagna, dipinto e lago, luogo storico e bellezza naturale, scrisse, alle cosiddette classi superiori e a quei dottori irlandesi con lauree tedesche che vogliono esserne i leccapiedi e i parassiti. Io non vedo alcun peccato nell'introdurre le meraviglie naturali e artistiche a tutti quanti. E come viaggiare? Un consiglio ce lo dà il libro di D. Goffman, Ferie intelligenti con l'intelligenza emotiva, pubblicata da Rizzoli, 140 pagine, 10 euro, nel quale troviamo alcune considerazioni ironiche sulle vacanze, da quelle degli adolescenti a quelle degli anziani, dalle vacanze in coppie a quelle coi bambini. Agli appassionati di montagna invece segnalo la storia dell'alpinismo di Giampiero Motti, alpinista piemontese morto nel 1983, il libro è aggiornato da Enrico Camanni, che è uno storico dell'alpinismo, ed è pubblicato da Priuli e Verlucca, 796 pagine, 28 euro. Questo è un libro del 77 scritto da un alpinista appunto sui generis che, come spiega Camanni, si lascia coinvolgere in prima persona e oltre che testimone diventa compagno di cordata, giudice, filosofo, educatore, poeta. Motti figli, aggiunge il curatore, ha una visione esistenzialista della storia. La più grande difficoltà da vincere è posta in noi stessi e non al di fuori di noi. Queste sono parole dello stesso Motti. E quindi abbiamo quasi una premessa filosofica agli inizi del libro, che parla del rapporto tra l'uomo e la natura e poi affronta le spedizioni per le conquiste delle cime che hanno avuto luogo nell'Ottocento. Incontriamo i grandi protagonisti dell'alpinismo fino alle nuove voghe dell'alpinismo, come quella dell'arrampicata in solitaria, che così il libro ci descrive. Si dice che la scalata solitaria sia un po' una vocazione. Ed è vero, vi sono alpinisti assai abili che però non hanno mai arrampicato in solitaria. Essi stessi non saprebbero rispondere il perché. Forse è perché hanno paura. Forse è perché senza il legame della corda si sentono incapaci di salire per un solo metro. Forse perché lo considerano un rischio inutile. Eppure non vi è nulla di più elegante dell'arrampicata solitaria. È un dialogo, meglio un monologo, che richiede perfetta conoscenza di se stessi, un autocontrollo degno di un santone indiano, una mente fredda e analitica e allo stesso tempo l'ingenuità, l'incoscienza e la freschezza spirituale di un bambino. Gli psicologi dicono che lo scalatore solitario non ha in sé l'idea della morte ed è per questo che può permettersi di osare fino a quel punto senza provare paura. Altri sostengono il contrario, ossia che egli cerca la morte come massimo desiderio realizzabile nella sua esistenza. Comunque, chiunque abbia visto arrampicare un solitario ha provato un'emozione strana, quasi un'angoscia, che porta a coprirsi gli occhi e a non guardare. Forse il timore che egli possa cadere non è null'altro che un inconscio desiderio che egli cada, suggerito da chissà quali recessi del nostro animo. Qualcuno parla di potere allucinogeno dell'arrampicata solitaria, dato dagli scarti dell'adrenalina che resterebbero nel sangue, motivati dal continuo controllo della paura e dell'angoscia. Qualcosa di simile accadrebbe anche nelle pratiche orientali tipo lo yoga o il buddismo zen. Insomma, esisterebbe una sorta di euforia data dall'arrampicata solitaria. Ma ciò ci pare fin troppo semplice. Vi è sicuramente alle spalle qualcosa di molto più profondo. Ultimi arrivi. Siamo ancora in tempo per leggere Delitti di Ferragosto, una raccolta di gialli, di racconti gialli di vari autori: Massimo Lugli, Francesca Bertuzzi, Paolo Roversi, Diana Lama, Gianluca Morozzi, Pier Giorgio Di Cara, di Viennelli, pubblicato da Newton Compton Editori, 318 pagine, 9,90 euro, che ha la peculiarità di dedicare ogni racconto a una città italiana diversa. Poi altri autori, e qui troviamo anche dei grandi classici, nel libro di Einaudi, Gialli d'estate. E gli autori sono Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Hillary Queen, Jacques Futrell, Émile Gaboriau, Maurice Leblanc, Catherine Louisa Perkins, Edgar Allan Poe, Rex Stout, Fred Vargas e Marcello Foïs. 384 pagine, 13 euro. Anche questi sono dei gialli ambientati in estate, che la nota del curatore all'inizio ci dice forse la stagione migliore per commettere un delitto. E infine due grandi giallisti, Andrea Camilleri e Manuel Vasquez Montalban, si incontrano nel libro pubblicato da Schirà, che è appunto la trascrizione dell'incontro, del confronto che i due scrittori ebbero nel 1998 al Festival della Letteratura di Mantova. Andrea Camilleri incontra Manuel Vasquez Montalban, Schirà, 54 pagine, 7 euro. E a questo punto il confettino. Un viaggio è al centro del libro di Ulysses Moore, che è lo pseudonimo di Pier Domenico Baccalario, Viaggio nei porti oscuri, pubblicato da PM, 296 pagine, 16 euro, una nuova avventura di Murray, Minna, Shane e Connor, che questa volta faranno i conti con la necessità di oltrepassare anche i confini del tempo. E con questo ringrazio Lorenzo Nespoli, redazione, Filippo Vreggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.